dice che si trova la luce, poi c'è la realtà che dilania con le sue ombre. È nell'anima che si trova.